Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Tu grillo parla, che parli alla gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha pregato, sei un profeta di varietà. La rete deciderà, si voterà e le persone che saranno votate andranno a fare quello e faranno solo quello. Se gli italiani e i romani preferiranno una persona nota o un cattedratico o un luminare, continueranno a fare così, non cambierà niente a Roma. La persona magnifica, ci interessano persone che abbiano una personalità, che abbiano una competenza e che siano sani, sani, abbiamo bisogno di persone sane. Marina credo che degli scontrini. Io non lo so, noi ci avete preso per il culo per anni sugli scontrini a noi, se vi ricordate, i grillini, gli scontrini, ha fatto lo scontrino, quello là che gli cadeva lo scontrino, ve lo ricordate? Adesso siete accaniti sugli scontrini di Uva. Guardate, datevi una regolata, datevi una regolata. Cominciato a fare il cameriere Beppe Grillo. Non so, bisognerebbe, vedete, dice del comune di Roma, non ci serve il nomone, non ci serve. Mi sa che la proposta che ha fatto qui Mario Adinolfi di candidare direttamente Beppe Grillo, sindaco di Roma, va un po' al pari di quella di Giuseppe Cruciani, sindaco di Roma. Cioè, sono due minchiatine, insomma. Diciamo così. Niente. Niente VIP per Roma, il candidato lo sceglierà la rete. Ci vogliono persone sane su questo. Non c'è dubbio, ma vai a trovarle. Oh ragazzi, il Senato dunque ha approvato, tutto a posto. C'è anche questo labiale, pare, di Maria Elena Boschi, che ha un grillino che gli ha detto questa riforma massonica. Pare che la Boschi gli abbia detto massonica tua sorella, dal labiale, dal labiale. Moviola sul labiale della Boschi per capire se ha detto massonica tua sorella. Comunque il Senato è passato, adesso c'è lo Ius Soli, adesso ci sono le unioni civili, ma prima guardate, io ve lo devo dire perché non lo trovate su tanti giornali, oggi ne parla un po' Libero, lo scrive il Fatto Quotidiano, ma non lo trovate, è lì a pagina 20-25, prima delle unioni civili verrà dato un via libera velocissimo a una legge sanatoria. La legge, definita legge Boccadutri, perché prende il nome sempre da chi la presenta. E questa legge prevede questo: nonostante i partiti non abbiano i bilanci certificati dall'ente che li deve certificare, si prenderanno quest'anno i soldi del finanziamento pubblico, 45 milioni. La legge verrà approvata oggi, domani, prima delle unioni civili. Una roba veloce, rapida, una sanatoriella. Vergogna. La radio diventa vergogna. Paola by night. Non per Paola questo. Paola Sanuzzi. La notte inesorabile. Ma buongiorno. Per ascoltare la voce di Paola fino alle 6:33. Ecco. Con la nuova stagione. La radio da ascoltare. Paola 24. La passione. si sente. Come è meraviglioso. Allora, com'è andata Paola by Night questa notte su Radio Paola? Su Radio Paola abbiamo parlato di sogni. Sogni, è una cosa sogni, molto, molto, molto notturna. Bello. E abbiamo dormito come dei sassi. Buongiorno. Sei ore in onda di Radio Paola qui su Radio Paola. Sei ore in onda su Radio Paola, di Radio Paola, su Radio Paola che dorme. Che dorme. No, devo inventarmi qualcosa di nuovo il prossimo mercoledì, insomma. Mi sembra giusto. Voglio dire qualcosa di più intrigante e interessante, mentre non sono sogni, ma sono incubi. Vogliamo un sindaco che faccia il sindaco. Non deve camminare il sull'acqua. Il sindaco onesto, il sindaco. Non deve camminare sull'acqua. No, deve fare il sindaco. No, esatto, riparare due buche, buttare l'immondizia, non lui personalmente. No, certamente no, non glielo chiederemo mai. Ma qualcuno ma che problemi, la butti, sì. I problemi ci sono, ma qualcuno che la butti. Esatto. Qualcuno che la butti. Esatto. Buongiorno. Buongiorno a Paola Saluzzi, buongiorno. Direttamente dalla notte qui su Radio 24. Paola by night. Paola by night. Faccela un po' meglio, faccela un po' meglio. Paola by night. Esatto, class, come diceva Trapattoni, don't say cat is in the sack until cat is not in the sack. Assolutamente un genio dei nostri tempi. Va bene, un altro genio che abbiamo qui è il nostro caro direttore. Buongiorno. Il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Beh, genio, dai. Genio, beh dai, no, noi vogliamo così pomparti un po', no? Non ti buttare giù. Genio, genio, perché non sei un genio a tuo modo? No. No. No. Ma sei uno di quelli che dice faccio il giornalista sempre meglio che lavorare, come lo diceva, dico quasi tutti i giorni. Ecco, più o meno anch'io, è il mio motto, come diceva il grande Barzini, credo l'abbia detto lui, maestro di giornalismo, uno dei tanti, ebbene sì, è sempre meglio che lavorare, e va bene, siamo qui e c'è il Parlamento da aprire, apriamo anche il Senato oggi. Tra l'altro adesso mi viene in mente una cosa, che giustamente mi hanno fatto notare, ma così è una domanda che da ieri, da quando hanno terremotato la regione Lombardia con l'arresto del vicepresidente Mantovani, che credo sia anche consigliere regionale ovviamente, in quanto credo uno dei più votati. Ecco, ma nel nuovo Senato ci fosse un Mantovani nel nuovo Senato in quanto consigliere regionale, avrebbe l'immunità parlamentare? Ecco, questa domanda, Luca, io da ieri un po' me la faccio, a dire, no, non vorrei che avessimo fatto anche un mezzo pasticcio con questa cosa, o no? Che dici? Ma peggio di come adesso non credo. Comunque, sì, temo di sì, ci sarà un'immunità anche per questo. Ci sarebbe l'immunità. No, così, mi è venuto questo dubbio a dire, non sarebbe una buona cosa se fosse così, non so. Dovrebbe riguardare solo la sua attività da senatore. Sì, non dovrebbe. L'attività correlata, per esempio, se tu combini o comunque sei accusato fino a prova contraria di aver combinato un danno, un guaio nel in quanto assessore, lavoro, certo. In quanto assessore, ecco, lì non dovrebbe valere l'immunità. Comunque sicuramente, insomma, sì, certo, è data a pensare, ecco, mettiamola. Ma infatti dovrebbe essere così, quindi in quanto Regione Lombardia questo avrebbe fatto questi guai. Tra l'altro è difeso dall'avvocato Lassini, forse il nome non dirà molto, ma vi ricordate qualche tempo fa quando apparvero i manifesti per Milano, via le BR dalle procure, via le BR o dalla procura, via le, te lo ricordi Luca? Era lui, è l'avvocato di Mantovani. Non ero a Milano per vedere questo cartello. No, dai, non te lo ricordi, sotto elezioni, via le BR dalle procure. Grande polemica, durò due giorni, credo, e poi furono tutti oscurati. Comunque, il buon Mantovani, che è anche accusato, racconta ai giornali, di essersi fatto restaurare la villa e la casa da un architetto che poi ha lavorato anche con commesse pubbliche. Questa cosa della casa c'è sempre, Luca. C'è sempre, non lo so perché. Perché insomma la casa è la prima cosa per gli italiani, certo. È la cosa acquisita. No, sì, è abbastanza terrificante. No, no, è così. E la casa è un qualcosa così. Non so se Salvini ha commentato. Salvini ha fatto un'intervista sul Corriere della Sera oggi dicendosi molto arrabbiato. Stai attento perché Salvini spesso ci ascolta a quest'ora, che è un padano sveglio. Padano, ho capito. Perché i romani non sono svegli. No, vabbè, no, Paola, non volevo cadere nei soliti cliché al nord operosi, i terroni polentoni, no, cioè queste cose qua. No. Questo a Milano abbiamo già ampiamente superato. No, devo dire che sì, siamo italianissimi. Sì. No, Salvini ha detto, è molto arrabbiato. Praticamente ha detto che è un'inchiesta a orologeria, cosa anche questa un po'. Ah, certo, la stessa cosa l'ha detta, però per Roma. Però, vabbè, perché è preso qui dentro. Non ci sono solo scontrini. Sì, è preso dentro anche Garavaglia, che è un fedelissimo di Salvini, che avrebbe segnalato alcune associazioni di ambulanze, eccetera. E Salvini dice: è il più onesto di tutti noi, l'avrei fatto anch'io, lo farei anche domani. Segnalare le associazioni più meritevoli. Il più onesto di tutti noi non può dire. No, ma infatti, Paola, tu come ne parli? Cioè, da Roma questa cosa, cioè non passa giorno da Roma, adesso la palla passa a Milano per quel che riguarda le inchieste giudiziarie. Sì, no, ne parliamo e inequivocabilmente, insomma, ieri in una lunga diretta, diciamo, monografica che riguardava la votazione di legge Boschi, è chiaro che ci siamo poi spostati su Milano, sui consigli regionali, perché alla fine quelli saranno i protagonisti, insomma, ulteriori, stabilito che ci sarà prima un referendum per approvare tutto questo, eccetera, eccetera. Sto parlando ovviamente della riforma del Senato costituzionale, e certo che bisogna occuparsene, e stabilito che bisogna sempre dare il tempo che tutto questo possa essere dimostrato. Ora è chiaro che nessuno si inventa un arresto così su due piedi senza argomentazioni, però tutto poi deve essere dimostrato, perché è giusto essere garantiti. Ma no, per carità, assolutamente. Sì, certo, Garavaglia ieri diceva e continuava a dire: non ho mai avuto niente a che spartire con nessuna di queste accuse, e quindi si è difeso in questi termini. Vabbè, ma è giusto poi che si difenda nel processo. Il dato di fatto è che quando la sanità è una torta da, come scrive oggi Il Giorno, 17 miliardi di euro, ricordiamo che la sanità in tutte le regioni prende tipo il 75% del bilancio, quindi è la torta economicamente più appetitosa e più golosa, e quindi mi ci butto, no? E poi quello che si chiede è che funzioni, è che funzioni bene, ecco, questa è l'unica cosa che non l'unica, deve funzionare bene senza piatti di torta, ecco. Questo dovrebbe, non stiamo parlando di un'utopia, dovrebbe essere così. È chiaro. Però poi il condizionale diventa d'obbligo, e quindi comunque la battuta sui romani che dormono ti ha molto infastidito, ti ha molto infastidito. Lo so. Il grande Luciano De Crescenzo: tolti gli esclimesi, siamo tutti terroni di qualcuno. Esatto, l'ho sempre trovata stupenda. Comunque mi dicono: ma che te ne fai del labiale della Boschi quando c'è Paola by night? Scusate, però la Boschi ha la S. C'ha la S e c'ha la C. La S e la C che fanno impazzire Lino. E non solo Lino. Allora, la S e la C. No, però io ho detto questa cosa della sanatoria. Guardate che è una cosa per me vergognosa. Ma non che non debba prendere i soldi, e questi sono ancora gli ultimi scampoli di finanziamento pubblico. Ah, lo devo dire, se no mi scrivono in 5.000 che il Movimento 5 Stelle questa cosa non la fa, non prende soldi pubblici. Mi scriveranno solo in 3.500 adesso. Allora, la velocità. Oggi passerà questa cosa, cioè non hanno i bilanci certificati, nonostante ciò diranno: vabbè, pur non avendo la legge in pratica dice: pur non avendo i bilanci certificati, secondo il comma 6, revisionato della comma 7 dell'emendamento numero 4 bis ter, ci prendiamo i soldi. Questo è Questo è il sunto di questa legge. Paola, fai qualcosa tu, mettiti di traverso. Mi metto di traverso, vai alla cassa del Senato, della Camera, non far uscire i soldi. No, non faccio uscire i soldi, li blocco. Bloccali. Li blocco così. Dovrete passare su di me. Ecco, si potrebbe fare. Luca Dini, fai qualcosa. La velocità. Fai qualcosa tu, Luca. Un emendamento. Fai un emendamento. Avendo i bilanci certificati, prenderanno i soldi. Esatto. Fai un subemendamento, fai qualcosa, blocca questo scempio. Milionata di emendamenti. Esatto. Fai una saccocciata di emendamenti, impara da Calderoli, inventati un algoritmo, fai qualcosa. Niente. Invece Crozza, sentite Crozza ieri a Di Martedì sulla Boschi, eh? Sapere che per la scrittura della nostra Costituzione siamo passati dai padri costituenti alla Boschi, beh, mi dà la stessa tranquillità che mi darebbe sapere che la Bibbia la sta riscrivendo Claudio Lippi. Vabbè, questa è la battuta. È la battuta un po' cattivella, così, un po' non mi è piaciuta. Non ti è piaciuta? No. No, ma dai, va. No, ma dai, sessista, no, ma sì, no, sì. No, ah, grandioso, no. È vero, sì. Dai, attacca, Crozza sessista. È sessista. Non l'avrebbe mai detto di nuovo, no, è sessista. Oh, Luca Dini, Crozza sessista. Adesso lo twittiamo tra un attimo e quindi buona giornata anche a Luca Dini. Andiamo intanto a sentire il traffico che poi entriamo. Oh, vi devo far conoscere una persona incredibile, voi non ne avete mai sentito parlare sicuramente, tale Ezio Capuano. Tu sai chi è, cara Paola? Ezio Capuano. Dichiaro la mia ignoranza e me ne scuso. No, ma non ti devi scusare, l'ho scoperto anch'io questa mattina. Tu, Luca, sai qualcosa di questo Ezio Capuano? È l'allenatore dell'Arezzo. È l'allenatore dell'Arezzo, che è uno notorio per trattare i propri giocatori. Vabbè, lo sentirete tra poco come. C'è il traffico, Milan. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Io vorrei sapere perché nessuno dice che questo giubileo è stato indetto senza consultare nessuna delle istituzioni italiane. Buongiorno Milan, sei simpaticissimo, ti auguro una buona giornata. Dopo le strade piene di buche, porche ai lati piene di immondizia, le coste inquinate, i mari inquinati, abbiamo scoperto che in Italia è inquinato anche il fondale marino. Elezioni per il Comune di Roma. Votate e fate votare per il partito della Zappa, candidato sindaco l'immarcescibile Alessandro Milan, all'inquisizione e fustigazione Oscar Giannino e alle politiche della comunicazione e della simpatia grandissima e fiammeggiante la rossa Paola Saluzzi. Il risultato è garantito. Eccolo lì. Questo contadino di terra. Mettiamo ovviamente ministro all'informazione Luca Dini, ministro al Mincul Pop. Mettiamo Mincul Pop Luca Dini e sistemiamo Roma nel giro di 4 mesi. Dateci 4 mesi. 4 giorni e noi sistemiamo Roma. Il partito della Zappa. Allora, in realtà posso dire che la cosa più importante è passata alla Camera come legge, ora ci vorrà al Senato, cioè la questione della cittadinanza agli stranieri. Per tradurla in maniera pratica, chi nasce qui anche da figli di stranieri diventerà italiano quasi subito, basta che studia. Cioè, accelerato tutto, lo ius soli, come è in America, per dire. In America chi nasce in America è cittadino americano, subito. Non è necessario neanche studiare. È vero. Sì, forse lì è un po' troppo, Luca, o no? Non credi? Cioè, non so, sai, è un paese diverso, geograficamente diverso, quindi posso capire che forse se lo sono potuti permettere è un pochino meno complicato che da noi obiettivamente sì, forse lì è un po' troppo, però c'è questa accelerazione, ovviamente contrari la Lega, il Movimento 5 Stelle è uscito dall'aula, contrari anche, diciamo, contrari alla destra. Ma perché sono usciti dall'aula? No, si sono non usciti dall'aula, quello per il Senato, si sono astenuti per questa cosa di beh, non... Io francamente la cosa che vedo in Italia, cioè di figli di stranieri che stanno qua e hanno 15-16 anni, non sono ancora come gli altri, la trovo orrenda. Sì, devo dire che la procedura adesso forse è troppo lunga. Qui si salta un po', dall'altra parte. Chiaramente ci vuole l'approvazione del Senato. Che dici? Direttore, devono avere i genitori, almeno uno dei genitori deve avere un permesso, cioè deve essere in Italia presente come regolare. Sì, insomma, sì. Non è un regalo. Lo trovo doppiamente dovuto, cioè era ora. Era ora. Vabbè, non la pensi come Salvini che dice una schifezza, ma questa no. Non è. Ma questa non è. Ma va. Strano. Di solito siete sulla stessa lunghezza d'onda. Comunque, sentite qui, cari ascoltatori, cara Paola Saluzzi e caro Lucadini. Ezio Capuano, allenatore dell'Arezzo, ha perso una partita con l'Arezzo e. Io ho 50 anni, queste figure di merda non le fai fatte. Mi venite a chiedere pure te, voi siete una banda di pezzi di merda, oltre che siete lo scandalosissimo paletti di voi, è chiaro no? È chiaro, voi siete delle merde uguali! Voi siete delle merde uguali ai giocatori basiti. Ma questo Ezio Capuano è mitico. Una volta si presentò appunto all'Arezzo dicendo l'Arezzo che gioca nelle serie minori, come se Belen facesse la barista. È una cosa incredibile. E gli hanno chiesto prima di una partita come vede i suoi giocatori prima di Arezzo-Pisa. Sentite ancora qui, Capuano. Voglio che l'Arezzo rigiochi da squadra d'Arezzo, rigiochi da squadra di Capuano, che io ritrovo in campo dei maiali assatanati e una banda di ignoranti, non una banda di femminucce come abbiamo giocato domenica. Penso che posso dire una banda di femminucce o rischio un altro deferimento? Qui penso di no. Vorrei che fosse una banda di maiali, di maiali assatanati, di ignoranti, cioè come se fosse un complimento, no? Voglio una banda di ignoranti in campo. Vabbè, ma Ezio Capuano, un grandissimo, siete delle merde umane ai propri giocatori. Ma è fantoziano. Sì. Ma io che dicevo mi scuso, non lo conosco. No, pensate che oggi il Corriere della Sera dedica a lui una pagina, lo fa Fabrizio Roncone, ma non nello sport, una pagina del Corriere al personaggio Ezio Capuano, allenatore di provincia. Vabbè, dai, io qua Vanity Fair con, sai chi c'è, cara Paola? No, ignoro. Sai chi c'è, cara Paola? Matt Damon. No, ignoro. Matt Damon, 45 anni. Ah, il marziano, l'ho visto ieri. Il marziano. Ah, eccolo qui, la nuova. Ma è già uscito o è l'anteprima? Sì. Ah. No, è già uscito. Vedi, Luca, come sono sempre informato. 3D per di più, con gli occhialini, vedi tutti i pezzi che volano. Sono sempre sul pezzo. Però vi segnalo, purtroppo, 30 secondi, questa intervista che fate, ma è vero, al sinodo c'è un prelato gay, un monsignore gay? Sì. No, beh, ce n'è uno, ce ne sono molti. No, beh, adesso... Però, diciamo, più facile trovare gli altri. Però, sì, questo qua è uno che parla. E che parla? Che parla, ma sotto anonimato? Sì, il nome di fantasia, ovviamente. Sotto anonimato, ma sappiamo chi è. Uh-huh. È veramente un prelato importante e racconta la... Non parla tanto non parla di omosessualità, parla di celibato, dice sostanzialmente qui il celibato non lo rispetta praticamente nessuno. Mannaggia. Fate qualcosa perché... Intervista su Vanity Fair, sotto anonimato, nel senso nome di fantasia, un alto prelato che partecipa adesso al sinodo, dice la castità, ma che e soprattutto ci sono i preti gay. Vabbè, lo trovate su Vanity Fair in edicola, così come trovate Paola Saluzzi alle 15 su Sky TG24 pomeriggio, ma devo proprio salutarvi. Cara Paola, caro Luca, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan

vergogna, cioè diciamolo, oggi incardinano il disegno di legge sulle unioni civili, poi sospendono i lavori, o meglio non è che li sospendono, mettono da parte, devono votare definitivamente questo, come chiamarlo, condono, sanatoria, cioè i bilanci non siano vidimati, si chiama ladroneria. Fatto una legge stabilendo che dovevano fare i controlli e dal primo momento hanno deciso di aggirarla perché non hanno mai dato le risorse a quella commissione, e adesso dicono che non c'è bisogno di controlli. Lo stesso giorno in cui la Regione Puglia, altra notiziola, questa viene segnalata solo dal Messaggero, approva una legge in consiglio regionale in cui si possono assumere i parenti come portaborse, eccetera, eccetera. Del resto lo ha fatto il presidente della Regione Puglia. Il presidente Emiliano ha la detto stampa, che è la sua compagna, e l'ha messa anche, credo, cioè è diventata direttore della testata giornalistica della Regione Puglia. Emiliano, che sei sempre uno! E cambiamo regione, sullo stesso argomento. Vieni da noi a dircelo Lazio, perché. Cantone ieri ci diceva, ma insomma le cose vanno meglio, eccetera, e qui in Lazio ci doveva essere una sospensione chiesta, decisa, anzi dall'autorità anticorruzione, del presidente Zingaretti, che ha nominato all'IPAB di Gaeta una persona in evidente conflitto di interessi. La legge Severino prevede 3 mesi di sospensione e Zingaretti ha fatto decidere da una sua dipendente che lui non si autosospende. Allora, queste sono le notizie che noi ci proponiamo, politiche. Segnaliamole un po'. Sì, non sono le notizie da prima pagina, no, però a noi ci piacciono. Però danno l'idea che, insomma, del resto, dopo gli arresti di ieri, ce ne sono anche stamattina di arresti, leggo. Ah sì, attenzione, comunicazione per tutti coloro che sono nel traffico di Roma in questo momento, magari nel grande raccordo anulare, siete bloccati, siete fermi. Sappiate che noi siamo garantisti, ma sono avvenuti degli arresti 10 minuti fa, come ha detto il giornale radio. 2 imprenditori e un funzionario del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma sono stati arrestati perché avrebbero condizionato con passaggio di denaro le gare d'appalto per la grande viabilità della città, un po' intasata, però. Quindi se siete in colonna sappiate potete. Che c'era chi lavorava per voi, per così dire. Esatto, potete dire la vostra. No, comunque, allora, ci segnalano tantissimi via SMS che Callisto Tanzi, effettivamente, è il più San Callisto che conosciamo, è il più famoso di Callisto Tanzi. E vabbè. E quindi un fraudolento legato a uno scandalo tra i più gravi per ammontare finanziario. Però italiano. Buono onomastico anche a lui. Buon onomastico a tutti. A San Callisto Tanzi. E ripeto, sì, anche secondo me, l'ho detto, vergogna questa cosa dei partiti che si sono presi. No, ma sono senza vergogna. Dire vergogna, quelli sono incapaci di nutrirla. Diciamolo però, perché il famoso costo della democrazia, il costo della democrazia, quello che si declina con le dita della mano. Ma no, si declina. Fa il gesto del rubare. Sta facendo il gesto del rubare, ma cosa bisogna fare? Abbiamo votato un referendum tanti anni fa, ma non contiamo niente su questo. No, non contiamo niente su questo. C'è poco da fare. Sono d'accordo, sono usciti dalla finestra, i finanziamenti sono rientrati dalla porta principale. Ma vedrai che tra un po', siccome quando si tratterà di arrivare al 2018, cioè quando finisce definitivamente il decalage, e non basteranno quelli della scelta, si inventeranno qualcosa di quell'altro meccanismo completamente sbagliato che è 2 per 1000, perché anche chi non sceglie paga, allora diranno che ce ne vuole una, lo chiameranno in un altro modo, lo chiameranno bocca d'oro, bucca d'utri, tutto quello che vuoi tu. Ma tanto, ripeto, San Callisto, il partito sul denaro pubblico, insisto. Scusate se insisto. Tra l'altro, 800 24 00 24 è il nostro numero verde per intervenire. Abbiamo parlato delle tangenti, abbiamo parlato di questo. Ridiciamolo, Oscar, perché sennò ci scrivono in 1000 che il Movimento 5 Stelle non prende soldi da finanziamento pubblico, e quindi è l'unico partito. Abbiamo detto anche che sul disegno di legge di oggi uno non è d'accordo, il Movimento 5 Stelle. Sì, no, infatti, ma no, va bene ribadirlo, se no ci scrivono in decine di migliaia. Però in Regione Lombardia hanno arrestato il vicepresidente Mario Mantovani. Le accuse sono concussione, corruzione. L'accusa anche quella di essersi fatto fare dall'architetto a spese nostre dei rifacimenti di una villa. C'è sempre la casa dei politici, secondo le accuse dei magistrati. Ne vogliamo parlare con un ospite che è con noi, è un ex magistrato, ha fatto parte del pool Mani Pulite, e ora ovviamente non è più in pensione, racconta altre cose, parla sempre di legalità ai ragazzi, a me questa cosa piace scuole, molto, sì, va infatti. Nelle scuole, è Gerardo Colombo che salutiamo, buongiorno. Milanese doc, buongiorno dottor Colombo. Buongiorno. Io ho letto che tornano le accuse di manette facili. Ovviamente lei non sa dell'inchiesta, non se ne occupa, ma è possibile una richiesta d'arresto un anno fa e l'arresto avvenuto ieri da parte con la firma del giudice? Non so cosa dirle, nel senso che, come diceva lei, io non seguo questo caso, io faccio altro. No, ma tecnicamente voglio dire una cosa un po' strana. Tecnicamente è possibile, sì. Tecnicamente è possibile, nel senso che c'è una richiesta, giudice valuta se questa richiesta può essere ancora attuale oppure no. Gliel'avranno fatta mille volte questa domanda, ma sì, se la corruzione all'epoca di quando lei era magistrato e la corruzione, sì, che vede oggi, che raffronto e che paragoni si possono fare? È maggiore, è minore, è di diverso tipo, è cambiata? Ma io credo che più o meno il livello della corruzione di questo paese sia analogo, lo stesso di qualche vent'anni fa, abbondanti. Secondo me qualche cosa è cambiato. Per esempio, allora la corruzione era sistematicamente collegata al finanziamento illecito ai partiti politici. Poi comunque comprendeva anche una parte di benefici personali molto spesso, non per tutti, ma molto frequentemente. Oggi mi sembra che la corruzione non sia più accompagnata così frequentemente dal finanziamento illecito, che mi pare si sia molto molto ridimensionato. Si torna a mettersela nelle proprie tasche? Sì, sembrerebbe parecchio. Adesso io in questo caso non lo posso. No, adesso non giudichiamo, però voglio dire, se uno vede le ville Galan, ville settecentesche di qua, di là, al di là delle ipotesi di reato che riguardano Mantovani, su cui ovviamente noi non abbiamo nulla da dire, però era noto da anni che era assessore della sanità avendo interessi, per così dire, in una costellazione di cooperative che erano nella sanità, di le residenze di anziani e così. Adesso non voglio dire, sono conflitti di interesse macro evidenti e macroscopici. È ovvio che una cosa non dovrebbe essere, secondo me, proprio fisiologica di questo tipo qua. Ecco, mi limito a dire questo. Però si torna alla cosa del rubare per sé, cioè, ecco, per mettersi in tasca, per arricchirsi. Questa è un po' la sensazione, Colombo. Sì, che è una cosa che esisteva anche allora. Esatto. Però adesso mi sembra che ci sia soprattutto, se non quasi esclusivamente quello. Anche attraverso delle forme diverse, nel senso che allora circolavano soprattutto soldi, no? O in contanti, attraverso transazioni finanziarie, magari anche all'estero. Così. Adesso si sente dire che ci sarebbero anche molto, molto frequentemente delle prestazioni di altro genere. Mm. Ecco, queste sono un po' le differenze in un paese che comunque è caratterizzato da una corruzione estremamente diffusa, capillare, articolata, che non riguarda soltanto i piani alti, ma riguarda un pochino tutto, e che secondo me può essere così diffusa anche ai piani alti soltanto perché è molto diffusa anche ai piani bassi. Allora le faccio un esempio, Colombo, per chiederle una sua opinione proprio a proposito di questa diffusività. Sui giornali finisce nelle pagine sportive come se fosse appunto una vicenda solo sportiva, invece secondo me è una vicenda che denota la corruzione di uno dei pilastri su cui girano molti interessi politici e l'attività sportiva, diciamo, più importante, cioè il calcio. Questa indagine in corso su Infront, Bogarelli. Molti di noi, con i giornalisti economici, scrivevamo fin dall'inizio: la gara per attribuzione dei diritti è evidentemente truccata sin dall'inizio, quella in questi anni. I diritti televisivi sono centinaia di milioni, sono ciò che reggono il calcio. Oggi mi ha molto colpito l'intervista al patrone del Genova, Preziosi, che dice: vabbè, ma scusate, cioè, qual è il tema? Che fosse truccata la gara? E il patrone del Genova, Preziosi, imprenditore privato, dice: ma noi eravamo tutti d'accordo, quindi che accusa è? Cioè, eravamo tutti d'accordo nel truccarla, quindi si può truccarla. Allora, le faccio questo esempio: fino a che il calcio, imprenditori privati ragionano così, poi come si fa a protestare con i politici? Cioè, il gatto si morde la coda, purtroppo. Ma credo di sì. Secondo me il problema sta proprio nel fatto che, essendo così diffusa la corruzione anche a livello di base, no? Ma proprio nel comportamento di tutti i giorni, senza andare a prendere, perché anche lì si tratta di persone note che fanno queste osservazioni, non sto dicendo che si tratta di corruzione, che fanno queste osservazioni, però le stesse osservazioni le fa l'artigiano, il commerciante, ma delle volte anche l'insegnante e così via, no? E allora il problema, secondo me, è questo. Il problema è quello della la corruzione diffusa, della cittadinanza, sì, della corruzione diffusa. O per meglio dire, i corrotti sono solo gli altri, ma se lo faccio io no. Sì, esattamente. L'atteggiamento, diciamo, dal piccolo atteggiamento quotidiano, che è quello che poi lei insegna o cerca di insegnare e trasmettere ai ragazzi, no? Ma di quanto di questo arriva? Perché poi, insomma, se la società italiana vede una corruzione diffusa, è perché la società italiana è fatta da noi, dalle persone, dai ragazzi che poi crescono, voglio dire. Esattamente, quindi, che magari non siamo tutti così. Però la linea di pensiero dominante è sostanzialmente quella. E cosa succede con i ragazzi? Con i ragazzi succede che, parlando di questi temi, parlando della loro relazione con le regole, della loro relazione con gli altri, i ragazzi sono molto coinvolti. Cioè si riesce molto bene a parlare con loro. Purtroppo, poveretti, hanno di fronte gli adulti che gli danno cattivi esempi. Però, dottor Colombo, lei un'altra volta mi ha colpito quando in un'intervista disse: molte delle persone che vedo arrestate, che leggo sui giornali, sono persone che anch'io conoscevo benissimo, no? Che tornano ciclicamente ogni 20 anni. Delle volte sì. Delle capita volte spesso sì. Nei giornali. È il caso di Mantovani, per esempio, conosceva, sapeva, ne aveva sentito parlare all'epoca. Ma non particolarmente, adesso non mi ricordo, sono passati così tanti anni, ma non però succede, lei registra questo, che ciclicamente non impariamo dal nostro passato, evidentemente. Non è tanto che non impariamo dal nostro passato, è che essendo così diffusa la corruzione, poi non è che attraverso la scoperta di un caso singolo scoperta porti come risultato al falò di tutto il fenomeno, purtroppo. Esatto. Non è una questione giudiziaria la corruzione in Italia. La corruzione in Italia è una questione culturale. È una questione culturale. È interessante. A proposito di questione culturale, adesso non lo dice Colombo, mi permetto io l'accostamento. Come parlavo prima del caso in fronte il calcio, sì, e il fatto che i giornali questa roba non ne vogliono parlare, è evidente. Il che non rovinare il calcio, non rompere il giocattolo calcio. Esatto, dai, e gli interessi che ci sono dietro, che interessano molto ad alcune proprietà editoriali. A proposito di cultura diffusa della legalità, prima pagina, il Fatto Quotidiano, Renzi, a proposito di Marino, i rimborsi spese ci sono, le fatture no. Anche questa è un'espressione della cultura della legalità, continua da giorni, Colombo, per essere chiari. Dottor Colombo, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie Gerardo Colombo. Davvero, tra l'altro ricordo anche il libro, che c'è, Lettera a un figlio su mani pulite, sì, edito da Garzanti, lo trovate in libreria. Lettera a un figlio su mani pulite, da uno che mani pulite l'ha vissuta da protagonista. Caro Oscar, qua ci sono gli ascoltatori, c'è anche chi ci scrive: sono in coda da 2 ore a Roma, mi ridite un attimo il nome della persona. No, siamo garantisti. Non ho detto sono state arrestate delle persone che avrebbero preso tangenti sulla viabilità a Roma, ma i nomi non ci sono ancora, e poi non è che vogliamo far la gogna, ci mancherebbe. Comunque il titolo del più severo forse oggi sulla vicenda dell'arresto di Mantovani è naturalmente il giornale romano, non milanese. Sì, anche queste cose la dicono lunga, come si fa, cioè, il nostro mestiere. Esatto, che dice un bel titolone, che dice: le due facce del prediletto di Silvio, un gentiluomo ingordo di cariche. Ma voi lo sapete, tra l'altro, che lui è diventato famoso, pare, quando si è preso cura della madre di Silvio Berlusconi, Rosa, tanto che quando è morta la madre di Berlusconi, lui ha proclamato lutto cittadino ad Arconate, dove è sindaco, è stato sindaco per 3 volte. Vabbè, piccola chicca, insomma. Comunque, se volete parliamo di questo, che facciamo? Andiamo ad assegnare i nostri Oscar? Andiamo a assegnare i nostri Oscar. Perché poi ci sono gli ascoltatori, eh? And the Oscar goes to... Guarda, io lo do polemicamente al Dream Team. Ti ricordi cos'era il Dream Team? Sì. Grande squadra di ball. Dream Team! No, ho letto che Renzi, io non ci volevo credere, vuole per Roma, promette per Roma adesso il Dream Team. Arriva il Dream, ma uno normale, basta uno normale che faccia le cose. Effettivamente, uno normale gli dice di no, visto i problemi del PD a Roma. Quindi io do il mio Oscar preventivo al Dream Team che salverà Roma. Ma il Dream Team. Il problema per lui è salvare il PD. E i team, forse ci vuole quell'altra serie, non so. Non è male. Non so quanti team se la ricordano, però, perché è una serie degli anni 80, a dire la verità. Team, certo. Va bene. Io invece la do, naturalmente. Altro tema, così approfitto, eccetera. Siccome ieri il Presidente Consiglio ha detto la soglia del contante, l'alziamo a 3.000 euro e basta, con sei il terrore, felice, basta felice. Visco, basta. Sei contento? Certo, perché è una lezione a giustizialismo stupido, quella è una norma sciocca secondo me. Visco si è già subito arrabbiato, ma certo, però il migliore editoriale su questo, non cito il mio, ma è quello di Alberto Mingardi sulla Stampa, e quindi cito questo. Fammi dire però, sulla Stampa anche vale la pena leggere sempre Maurizio Molinari da Gerusalemme per quello che sta succedendo, e troverete una pagina intera di servizi veramente veramente belli. E E ricordatevi che ieri la commissione olandese ha anche detto che questo Boeing caduto sui cieli ucraini è sì, un missile russo tirato dagli amici dei russi. Eh sì. Comunque, tutti questi temi, se volete parlarci anche della soglia aumentata da 1000 a 3000 euro del contante, 800 24 00 24. Oscar Giannino è contento, così si potrà pagare fino a 3000 euro in contanti. No, non metterla così. Così ho detto si potrà pagare fino a 3000. Ma non sono contento per quello. No, non ho detto, ho detto il fatto si potrà pagare fino a 3000 euro in contanti. Sì, siamo così. Non ho dato un giudizio. Vediamo se gliela provano, perché il suo partito sarà, ci sarà una legge di stabilità, insomma. Visco è arrabbiato e Giannino è contento. Ecco, Visco è questa è una costante però da molti decenni nella vita italiana. Dopo la pubblicità rientriamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Sono le 8.41, io lo sapevo, Oscar, che si scatenavano gli ascoltatori sul limite appena del contante. Appena si cita il limite del contante. Ma tra poco ne parliamo, perché è un tema assolutamente... Un atto di coraggio da parte di Renzi. Finalmente la missione della resa di un mantra ideologico di Vincenzo Visco del PD. Oh, Oscar Giannino è contento, Vincenzo Visco è arrabbiato. Questo lo facciamo. Roberto da Massa, buongiorno Roberto. Buongiorno, salve, grazie dell'opportunità e buongiorno anche agli ascoltatori. Che ci vuole dire? Volevo parlare del decreto, no, del disegno di legge Cirinna bis, sì, sulle unioni civili, sì, e in particolare sul fatto che sono scatenati tutti dicendo che quel provvedimento consente le adozioni ai gay, che mi sembra una falsità. Non è proprio così, non è così. Ecco, quel provvedimento consente a un bambino monogenitoriale che è instaurato in un rapporto consolidato di coppia, sì, a prescindere se etero o meno, e di avere la tutela anche di un'altra figura, sì, di riferimento. Sa Roberto qual è il problema? Quella che viene chiamata stepchild adoption. Facciamo un esempio pratico. Io ho un figlio, ho due figli in realtà, scopro di essere omosessuale, mi metto con un uomo e questi due figli, secondo questa legge, potranno essere adottati da questo uomo. Secondo, no, Oscar, sì, secondo il nuovo centrodestra è un grimaldello per fare di fatto entrare le adozioni tra gay. Posso portare la mia esperienza? Sì, certo. Allora, io sono un vedovo, 5 anni fa è successo il fatto, sì, e mio figlio aveva 1 anno e 9 mesi. Di lì a poco mi sono riaccompagnato, dopo qualche anno, la mia compagna, vedova anche lei, per mio figlio che l'ha conosciuta a 2 anni e qualche mese, lei è mamma a tutti gli effetti, ma quindi non c'è etero. Assolutamente. Ma il problema politico è che lei si era accompagnata a una donna, secondo Oscar. Il problema politico per i cattolici è che se uno si raccompagna a un uomo non è più. Cioè, cambiano le cose, secondo me. Sì, come sempre su questo la politica, invece di guardare alle condizioni concrete, ai diritti concreti della vita concreta, innalza bandiere. E quindi dice, è una scusa per estendersi l'adozione. Non stiamo parlando di questo, però l'abbiamo visto sulla legge 40, è il copione della politica italiana. E come dice Roberto, comunque, da Massa, è esattamente come dice lui. La politica su questo fa la grossier, pur di mostrarsi alle gerarchie cattoliche, poi gerarchie cattoliche, ma guardate cosa succede al sinodo della famiglia, perché poi a me fa ridere questa politica che ragiona come se ci fosse questa chiesa granitica, no? Cioè, che al sinodo ci sono i cardinali, 13 cardinali, ma i 13 non apostoli. Il vescovo Semeraro, intervistato oggi sulla stampa, il vescovo Semeraro di Albano, che dice: sono disgustato dal sinodo. Ecco, tanto per dire, è proprio il titolo dell'intervista. Ma si anche all'interno della chiesa adesso, non è che saranno tutti granitici. Ma no, perché si dibatte anche lì con un criterio un po' politico, per così dire, cioè di delegittimazione invece che di cose concrete. Vorrei sentire Roberto da Parma, che mi dicono vuole intervenire sulla questione dei contanti. Pronto, Oscar Giannino. Caro Roberto, che dici? Buongiorno. Lei è un ufficiale della Guardia di Finanza? No. È un ufficiale dello Stato? Sotto ufficiale. No, ma veramente? Sì, certo. No, perché veramente, caro, cioè, Alessandro, ho detto Roberto da Parma e Oscar Giannino dal buongiorno ha riconosciuto uno della finanza. Roberto, dica. Ma si vede Giannino all'occhio lungo. L'orecchio soprattutto. L'orecchio. Va bene, dica Roberto, sottufficiale della Guardia di Finanza. Sì, allora... avete invitato Colombo, che ha detto così, che adesso la corruzione sta dilagando, sì, e che ci sono altri sistemi, che non c'è più il denaro e basta. Ma tutto questo succede perché si gira del denaro contante, possono fare del nero e quindi fare dei lavori e non farsi pagare. Quindi lei è molto contrario, immagino. Se Giannino continua a dire che è giusto invece di 1.000, 3.000, addirittura lui vorrebbe sicuramente 10.000, Giannino sta facendo come Renzi, dando adito a spacciatori, prostitute, adesso no, Roberto, sì, non esageriamo, dai, adesso Oscar Giannino è per lo spaccio, dai, su, no, questo non l'accetto, la realtà, no, non l'accetto. Se lei vuol fare una contestazione, ma Oscar rispondi, vuol fare una contestazione sul provvedimento e dire, Oscar Giannino così favorisce lo spaccio, allora Renzi favorisce lo spaccio, no, ma diamo atto, Roberto usa esattamente gli argomenti da sempre usati a favore del fatto che è con il basso tetto al contante che si espiantano quei fenomeni con grande serenità. Peraltro anch'io sono d'accordo su questo principio, però io non ti dirò mai che favorisci lo spacciatore. Ma non è una questione, scusami, chi è convinto che col tetto si combatte quello fa bene a dirmelo esplicitamente. Io vi invito a riflettere, le soglie basse di contante, come ha spiegato benissimo ieri nella trasmissione pomeridiana del signor Oscar, il professor Raffaello Lupi, che viene da sinistra, segna il diritto tributario, complica la vita a chi rispetta le leggi e viene completamente ignorato dagli evasori. E facciamo gli esempi concreti: se viene il russo, cinese o l'arabo per comprare moda italiana con fasci di banconote, una volta che gli dicono guarda solo 1.000 euro, altrimenti dobbiamo fare la segnalazione all'antiriciclaggio, le cose che avvengono in concreto sono due, molto diverse da quello che ci dice Roberto. La prima è il cinese dice va bene non compro, la seconda è che il commerciante, per non rinunciare, a quel punto fa tutto in nero senza fattura, capite? È questo, Il pensionato, il dipendente che propone all'idraulico o che si vede proporre dall'idraulico senza fattura non ti pago l'IVA, non è fermato dal basso tetto al contante, sono fermati solo coloro che sono, per così dire, rispettosi. Dopodiché vi ricordo anche, caro Roberto, che vesti la divisa e pensaci bene prima di dire che chi non la pensa come, pensaci bene, ti dico, lo capisco, ma pensaci bene. Dall'anno scorso, il 20 di ogni aprile, l'Agenzia delle Entrate entra in possesso di tutti i dati bancari, titoli, crediti, cassette di sicurezza di ciascuno di noi. Tanto è vero che l'Agenzia delle Entrate ha cominciato a dire che i prelievi degli autonomi dal bancomat configurano, se tu non sai dirgli il beneficiario a chi l'hai dato con un pezzo di carta documentale, è un ricavo, un reddito aggiuntivo su cui loro fanno l'accertamento. Quindi e già lì dice, si potrebbe controllare. Quindi poche palle, però, per favore. Aspetta, va bene, sentiamo anche Anna Maria. Poche palle, per favore. Sentiamo Anna Maria dalla provincia di Milano, è scatenato. Datemi quelli contro Giannino, che così gli andiamo contro. Anna Maria, dai, forza. Anna Buongiorno. Lo dico con Anna ironia. Maria, non condivido niente di quanto dice Giannino. Niente. Direi a Giannino di rivolgersi qualche volta a uno psicologo. Addirittura. Io non sono assolutamente d'accordo neanche. Credo che lei me ne possa indicare uno, signora. Perché lei è psicologa, signora? No, io non sono psicologo, sono un ex insegnante. Perché io farei pagare tutti con una carta, è così comodo, io tutti con la carta e vedo anche le facce esterrefatte che fanno alcune volte, ma signora no, anche non so 2 euro per comprare la scatoletta carta di credito in America, fanno così, certo, noi abbiamo le commissioni più alte, signora, infatti. Quindi anche questo conta, no? Comunque insomma mi piace questa pugna, questa battaglia. Anna Maria, guardate, i contanti sono tracciabili, l'Agenzia delle Entrate noi sa tutto da che ha tutte le movimentazioni bancarie. Quindi abbassate, quindi tu dici utilizzate i dati che già sapete, pensando che col contante ci sono solo gli evasori, perché siamo il paese col più basso utilizzo di carte, anche perché sono più care, quindi state dicendo a milioni di italiani che sono tutti evasori, però vi considerate eticamente superiori e io sorrido. Caro Oscar, di questo parleremo, ci saranno nuove telefonate nei giorni, chiamateci anche nei giorni prossimi sulla questione del contante. Dobbiamo raccontare una storia, è la storia di un commerciante, di un macellaio di Belluno che chiamiamo Davide, proprietario della macelleria Belluno, e salutiamo, è con noi Davide, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi ha già aperto, è tutto, clienti ce ne sono? Sì, oggi. Va bene. Siamo operativi. Allora, lei è finito sulle pagine dei giornali, del giornale, credo, perché è arrivato un controllo dell'INAIL. Esatto. Ispettori del lavoro che volevano controllare come è il loro lavoro, e il risultato di tutto il controllo è tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tutto a posto, niente, sì. Proprio niente fuori norma? No. Era un controllo dell'impianto della messa a terra, l'impianto elettrico. Perfetto, tutto a posto. Risultato, le hanno presentato una fattura da 418 euro. Noi ce l'abbiamo in mano, Oscar Genio, sì, questa fattura. Qua. Che lei gentilmente... Sì. Fattura ecco, perché cosa, scusi? No, ecco, non è che l'hanno presentata. Il fatto è che la comunicazione è arrivata ancora... È preventiva. Esatto. Preventiva. La comunicazione è arrivata a luglio. Ah. E avrei avuto questo controllo a settembre. Per un costo di 418 euro. Preventivamente avrei dovuto già pagare questi soldi per avere l'accertamento. Ma se era tutto a posto? Sì, certo. E poi era tutto a posto, glieli ridaranno indietro. Secondo lei? Non lo so, scusi se sorrido perché non c'è nulla da ridere. No, chiaramente la domanda era tendenziosa. Certo. Non le daranno indietro niente. Ma perché è previsto così dalla norma italiana? Sì, certo che è previsto così, ma se una cosa è prevista e sbagliata, noi lo diciamo, no? Ma figurati, ma lo dico a maggior ragione per dire che, come al solito, lo Stato ti chiede e chiede al nostro amico la macelleria i soldi per pagarsi le risorse, la sua organizzazione. Poi sui servizi, se viene a controllarti con metodi a campione, non vada tutti, metodi a campione, certo, che sono per tipo di impianti, per classe di impresa e così via, dice naturalmente adesso me li devi pagare. Perché... Ma prima, voglio dire, ma e lei quando lei ha pagato, poi quando è arrivato tutto a posto sarà stato contento, Davide, no? Di essere a norma. Sì, sì, senz'altro, ma quello già si sapeva, sì, l'impianto era stato fatto a regola, poi per impianti superiori ai 6 kW dobbiamo anche presentare un progetto fatto da un professionista iscritto all'albo. Quindi e quindi lei era tranquillo, tutto, era sereno. Sì, assolutamente. E adesso, cioè, voglio dire, ma non gliel'ha chiesto agli ispettori? Dice: scusate, io ho pagato 418 euro perché? Purtroppo l'ispettore che è venuto è una persona, devo dire, anche squisita. Lui fa solo questo e non è d'accordo neanche lui su perché lo Stato cosa. Che si scrive la norma per sé, cioè... e non è proprio tanto al campione, né? Lui lavora solo su questo. Però vogliamo denunciarla questa cosa che tutti i commercianti conosceranno, tu lo sapevi, Osti? Io non lo conoscevo, funzionava così, cioè lo ma Stato io perché dice... ogni tanto Stato ladro? L'INAIL ti perché dice... alcuni gli ascoltatori pensano sono un matto, no, perché conosco la normativa italiana, cioè l'INAIL viene a controllare i commercianti e preventivamente chiede per la visita di ispettori pagati dallo Stato. Certo. Poi la visita va tutto a posto, non c'è nulla fuori norma. Ma non c'entra con la sanzione, è un costo aggiuntivo di espletamento di servizio. Ma che costo è, scusi, cioè Davide, che costo è esattamente? Tant'è che è un rimborso forfettario per pagare le spese dell'ingegnere dell'INE. Ma che è pagato già un suo stipendio. Ed è stabilito per tipo e potenza d'impianto. Sì, ma ha già un suo stipendio lì, l'ingegnere dell'INE. Ma lo Stato ti sei mai reso conto nella tua vita di contribuente, di lavoratore dipendente, che allo Stato i soldi non bastano, ma a differenza di te, di me, del nostro ascoltatore, no, che se li deve far bastare, a lui c'è questo piccolo fatto, non bastano mai i soldi, non bastano mai. Problema. Signor Davide, lei, non lo so, da questa piccola grande storia, perché poi dalle piccole storie si racconta la storia di un come paese, funziona l'Italia. Lei che cosa ne ha tratto di morale, se vogliamo, morale conclusiva? Ma guardi, io purtroppo vedo, è da un po' di anni che faccio questo lavoro, vedo che la burocrazia è sempre più onerosa per, per le attività. Per la politica promette le semplificazioni e le fa con più atti di quelli che abolisce. Sempre più onerose tra i vari corsi che dobbiamo fare, perché sono... Certo. Sono dei corsi che sono diventati obbligatori, sono sempre carico nostro. No, ma è chiaro, sono sempre e sempre più costi. Signor Davide, noi le facciamo grande in bocca al lupo, proprietario di una macelleria, Belluno, anche questo, Oscar, non vuole rimanere anonimo, non diciamo che macelleria, ma però è giusto. Noi abbiamo accertato e sappiamo che cioè, sì, così, cose abbiamo sono, in mano tutto, detto, abbiamo in mano problema. Tutto. Ci fermiamo qui, Oscar, ci troviamo domani. Fatemi ringraziare Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Grazie a tutti e ci vediamo naturalmente. Noi ci sentiamo domani mattina. Io alle 4:30 c'ho la versione di Oscar. Anche oggi continuate con l'ascolto di Radio 24, mi raccomando a tutti. A domani. Elezioni per il Comune di Roma. Votate per il Partito della Zappa. Candidato sindaco l'immarcescibile Alessandro Milan. All'inquisizione e fustigazione Oscar Giannino. Il risultato è garantito.